siete accorti che ieri nella messa abbiamo letto, ecco, proprio uno di quei Vangeli che poi abbiamo meditato lungo il giorno, questo lungo discorso di Gesù nell'ultima cena, e anche oggi nella messa leggeremo proprio quel punto su cui il punto a cui siamo arrivati ieri, e come lo vedo come un piccolo incoraggiamento di Gesù a proseguire in questa meditazione delle sue parole. Nella messa di oggi leggeremo proprio quel dialogo con Filippo, ieri era il dialogo con Tommaso. Gli disse Filippo: mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Nell'introduzione di questo capitolo, il titolo redazionale della Bibbia che uso io, dice Gesù la strada che porta al Padre. In effetti, in tutto il 14° capitolo di Giovanni, tu Gesù parli molto del Padre. Padre mio e Padre vostro, vi ricordate che dice così a Maria Maddalena quando le appare risorto, no? Non sono ancora sceso al Padre, no? Di ai discepoli che vado al Padre, Padre mio e Padre vostro, che quindi è padre di Gesù in un modo diverso da cui è Padre nostro, perché per Gesù è il Padre che lo genera sempre, eternamente. Noi invece siamo inseriti in questa generazione, siamo adottati, anche se è un'adozione che ci trasforma dal di dentro. Anche le adozioni umane che avvengono nella storia degli uomini indubbiamente sono fondamentali, cambiano la vita, e anche nell'educazione, ecco. I figli adottati arrivano a prendere molto dai genitori adottivi, però nell'adozione soprannaturale avviene una trasformazione proprio dentro. Noi assomigliamo al figlio attraverso il battesimo proprio in modo che non possiamo spiegare, in un modo ineffabile, ma veramente il Padre del Cielo, il Padre Dio, quando guarda noi vede il figlio, quindi ci ama con un amore infinito come ama il figlio. E questa è la nostra identità, no? Quindi chi siamo? Sono un figlio di Dio, no? Noi potremmo proprio dire così, anzi è così. Voi sapete come me che oggi a Madrid viene beatificata in Almeraia, una delle prime, no, che conobbero l'opera, la Guadalupe Ortiz de Landazuri. Allora, ecco, a me sembra che sia, non è che la conosco tanto, ma ho letto qualcosa come voi, però mi pare che sia appunto una persona normale, quindi sapete che quando appunto i santi sono i santi del cielo, quindi magari ci sono molti santi che a Dio piacciono di più e che vorrebbe mettere come esempio di più, no? Però gli uomini vedono e c'è una certa fama di santità e poi scelgono perché abbiamo bisogno anche di esempi, di incoraggiamenti a percorrere una certa via, no? E allora, però poi tra tanti il Signore sceglie qualcuno perché fa un miracolo, no? Attraverso la sua intercessione. Quindi questo accadde molti anni fa, quindi un Signore si rivolse a lei e gli scomparve in una notte un tumore, se non ricordo male, all'occhio, era una cosa molto immediata e visibilissima e evidente. Allora, che cosa può volere Gesù nel dirci, guardate questa donna? Io penso che sia la sua normalità, no? So che c'è un testo con le lettere che lei scriveva al fondatore, no? Che allora era il padre, colui che poi le ha chiesto di andare in Messico, così le scriveva spesso. E mi dicono che in queste lettere si nota appunto la sua normalità, per esempio che non riusciva, si confida che non riesce a fare il piano di vita, no? Dell'Opus Dei, che è un piano di vita effettivamente impegnativo, è molto intenso, molto. Mi viene ovviamente pensando a Dio Padre che quando si fa il circolo delle persone dell'opera lo si legge, no? Il piano di vita per ricordarsi, e c'è l'orazione, la messa. E la lettura spirituale, la lettura del Vangelo ogni giorno, no? E poi ogni settimana la confessione, poi ogni mese il ritiro, ogni anno il corso di ritiro. E poi si arriva invece alle quelle che il fondatore ha chiamato le norme di sempre, no? E cominciano così, no? Ci sono quelle cose che non hanno una concretezza temporale, no? Che si possono compiere sempre, così in qualunque luogo e anche brevemente, no? E allora comincia così, presenza di Dio, e considerare la nostra filiazione divina, no? Cioè questo è un suggerimento di considerare frequentemente che siamo figli di Dio. E poi le giaculatorie, poi ecco quando e poi le comunioni spirituali, cioè cose che uno può così anche quando va per strada, quando si sveglia al mattino, e le ultime di questo elenco, è un elenco non esaustivo, ma però si capisce che dà un'idea, no? E dicono così, studio, lavoro, ordine e gioia. A me piacciono molto queste ultime, con l'ordine faccio un po' di fatica e il lavoro non manca. Lo studio non è solo lo studio dei libri, no? È l'atteggiamento di studio di fronte alle cose, ai problemi, no? Al fondatore piaceva dire, piuttosto che discutere, studiamo, no? Perché a volte appunto un problema se lo si studia, poi intanto si impara, no? Si imparano tante cose, no? Si approfondisce una certa verità, che magari è molto opinabile. Le verità opinabili sono tantissime, sono la maggioranza, cioè quelle lasciate alla nostra libera opinione da Dio Creatore. E i dogmi della fede in fondo sono pochi, sono Invece anche piaceva al fonditore dell'opera sottolineare la grande libertà che dobbiamo avere anche non solo nelle opinioni politiche, che questo un po' si sa abbastanza, ma anche nelle opinioni teologiche. Voi direte che non è così pane quotidiano, no? Discutere su opinioni teologiche, però a parte che in altre epoche della Chiesa succedeva invece, no? Le grandi dispute del Medioevo che radunavano le folle, un po' come oggi la finale di Champions, no? oppure quegli eventi di tipo di altro tipo. Invece allora veramente c'era passione per queste cose, ma sono questioni storiche che passano, che poi tornano, e non è facile, non è facile rispettare il pensiero altrui, la libertà altrui nel muoversi, nel decidere. Invece San José María diceva: devo rispettare la libertà degli altri, altrimenti non posso esigere che si rispetti la mia. Sembra un ragionamento molto banale e minimale, ma è molto profondo, è molto profondo. È un po' una espressione, è un po' come dire amare gli altri come se stessi, no? Fare agli altri quello che si vorrebbe che fosse fatto a me. E a volte è un esercizio proprio di virtù. Se volete c'è da meditare, no? un brevissimo scritto di San José María che si intitola L'avventura della libertà, e che lo si trova su Google. Se voi digitate e scrivete L'avventura della libertà, viene subito fuori. Lo si trova su un'antologia di testi sulla libertà che io ho curato alcuni anni fa, che si intitola Una libertà da vivere. Fu un articolo che lui scrisse nel 69 e lo fece pubblicare nel quotidiano ABC di Madrid, e poi nello stesso mese lo pubblicò in Italia Studi Cattolici. Pensate, lui in questo testo dice che la libertà è un dono immenso di Dio e che è molto importante per la fraternità, e che è una lotta, è un compito, cioè non è e non è mai raggiunta fino in fondo. E quindi è bello che noi teniamo presente come compito spirituale di lottare per essere liberi. I figli sono liberi. Addirittura, ecco, è proprio una caratteristica, è lo schiavo che non è libero, ma nel momento in cui diventa figlio, viene adottato come figlio, acquisisce la libertà e si muove nella sua casa come casa sua. Così vorrebbe il Signore che noi ci muovessimo nel mondo e nelle nostre case, come con la libertà dei figli di Dio, che è però tutta da conquistare. C'è una dimensione, se volete, ecco, proprio di grazia di Dio, no? Il Signore, noi ti chiediamo, Gesù, che tu ci dia il dono della libertà. E la libertà che tu stesso ci hai donato creandoci a tua immagine e somiglianza, lasciando la nostra vita nelle nostre mani, dice così una frase della scrittura. E poi tu sai che noi con il peccato l'abbiamo perduta in parte, no? Cioè l'abbiamo un po' rovinata quella libertà, però tu sei venuto perché fossimo di nuovo liberi, con la tua grazia, con la grazia della tua croce, perché fossimo liberi come figli di Dio. E Quindi rispettare la libertà degli altri, amare la libertà degli altri, anche quando questa libertà li porta a ferirci, li porta a peccare, cioè il peccato non si può amare, però la libertà di Dio, la libertà che Dio ci ha donato è così grande che Dio preferisce lasciarci la libertà e permetterci di peccare che toglierci la libertà. Pensate com'è grande questo dono. E il dono è uno dei doni che ci fa assomigliare a Dio di più. Certo, quando si realizza pienamente nell'amore, io sono libero di amare, sono libero per amare. Più sono libero, più amo, e più amo e più sono libero. Sono libero anche di perdonare chi mi fa del male. È una libertà bellissima, straordinaria. E siamo chiamati a vivere con libertà tutti gli impegni della nostra vita spirituale, soprattutto perché Dio ci ha creati unici. Non c'è nessuno che è uguale a me. E anche mi santifica in modo unico. Io ho il mio cammino. Una volta un sacerdote dell'opera del Portogallo, Don Hugo de Acevedo, che è anche un filosofo che ha scritto sulla libertà alcuni libri, in Italia ha pubblicato solo un articolo prima e poi un librettino quando c'era la rivista Fogli edita dall'Ares, che si intitolava La teologia del buon umore. Ma ecco, lui mi raccontava, e poi lo ha scritto, che quando il fondatore andò a fare, sì, Monsignore Escrivá lo chiamavamo allora il padre, andò a Fatima in visita di devoto, insomma, negli anni 70, e lui lo accompagnava e lì vicino al santuario c'era un centro di congressi ed era esposta la Madonna di Kazan, che è un'icona molto importante per il popolo russo, che fu messa in salvo quando ci fu la rivoluzione d'ottobre e arrivò in Occidente e poi fece vari giri e a un certo punto era lì per essere esposta alla devozione dei fedeli, poi arrivò in mano di Giovanni Paolo II, che oggi è il suo compleanno. E Giovanni Paolo II la tenne per molto tempo nel suo studio perché desiderava essere lui a riportarla a Mosca, ma non glielo permisero i rapporti ecumenici con il patriarcato, che non voleva che lui andasse là, no? E allora alla fine la fece andare con una delegazione, no? Io ero proprio in San Pietro quel giorno, c'era la messa di addio a questa icona, ma è un'icona, quando mi spiegavano, così importante per il popolo russo come Guadalupe per i messicani, per intenderci, io così ho ascoltato. Allora questo sacerdote Don Hugo pensò, se porto il padre a pregare davanti a questa immagine, un domani, quando ci saranno così in Russia, saranno contenti i russi che il fondatore ha pregato davanti a questa immagine. E allora prova a proporglielo, no? E, padre, guardi che qua c'è un'icona russa, potremmo andare a vederla. Invece il padre gli disse di no. E forse non lo lasciò finire tutta la spiegazione. E perché scrivere era abbastanza così immediato e dal carattere deciso. E se per caso, e penso io, aveva fatto il proposito, e a volte lo faceva, dico vado a trovare la Madonna ma non voglio fare turismo, era entrata questa, magari l'ho messa in quei termini, cioè, no, ma è il proposito suo di non distrarsi, e, però poi aggiunse, però tu vai, perché io ho il mio cammino e tu hai il tuo. Io ho il mio cammino e tu hai il tuo. I santi non vanno imitati. O meglio, se li imitate va bene, ma cioè, non è un problema. Però non è quello che vuole Dio. Dio vuole che noi siamo ispirati a seguire il nostro cammino come loro hanno seguito il loro. Magari in modo totalmente diverso. Ci sono mille modi di amare, ci sono mille modi di pregare. Lo insegnava e scriveva, diceva, non voglio che voi mi imitiate. Se volete imitarmi in una cosa, imitatemi nel grande amore che ho per Maria. Il santo non è una fotocopia, non può esserlo. E infatti, quando parlava dell'Opus Dei, il fondatore diceva è una grande autostrada, se volete, ma la gente la percorre come vuole, nei modi più diversi. Tu, io ho il mio cammino, tu hai il tuo. E anche, per esempio, citavo prima il piano di vita spirituale, è una strada, poi uno, cioè è normalissimo che Guadalupe scriva, non sono riuscito, non faccio fatica nell'orazione, mi addormento, non so, non faccio la lettura spirituale, è la cosa più normale del mondo, capita a tutti noi, non siamo monaci, diciamo, che sono facilitati da una vita di convento, penso che siano facilitati, poi anche loro avranno i loro problemi come tutti, o da un orario, da un essere protetti, no? E quindi poi appunto anche loro hanno i loro problemi. Sono andato a predicare due corsi di esercizi a monache di clausura, hanno una vita molto intensa anche loro, non è che però capiamo, no? Cioè, sono più protette, quindi se hanno la chiesa, quindi se in quell'ora vanno a pregare la liturgia delle ore, ma una donna, un uomo, una donna immersa in mezzo al mondo, con un lavoro professionale, con una famiglia, no? E con impegni sociali vari, è un miracolo se riesce a fare il piano di vita. Quindi facciamo un miracolo ogni giorno, se ce lo fate. Se. Per cui uno dice, ma ecco, e peraltro Guadalupe era un'operaia, quindi aveva in casa l'oratorio, quindi la visita era molto facile da fare, la messa anche, la confessione non c'è problema perché il sacerdote va lì tutti i giorni. Quindi una vita molto facilitata, no? E in effetti quando fecero quando dovevano, insomma, Giovanni Paolo II disse a Don Alvaro, cioè che potevano andare avanti nella quell'intenzione del fondatore, che era di rendere l'Opus Dei prelatura personale, discorsi, se volete, giuridici, ma che per rispettare il carisma. E allora fecero una commissione con tre cardinali e tre canonisti dell'Opus Dei a discutere, a parlare, a studiare. E alla fine, quando erano gli anni fine 70, anni 80, i primi anni 80, quando videro tutto, andava tutto bene, quindi doveva procedere. E allora ci fu un dialogo in cui questi cardinali, invitati a pranzo poi da Don Alvaro, dissero che la cosa che li aveva colpiti di più era proprio la realtà nell'opera delle persone sposate, cioè perché loro sono abituati nella Chiesa che un celibe appunto faccia opere di carità, faccia anche si santifichi nel lavoro, perché anche ci sono tanti esempi, e faccia apostolato, ma una persona sposata con gli impegni familiari appunto si impegna allo stesso piano di vita di un numerario, questo li sconvolgeva. Dicono, com'è possibile? Com'è possibile? E per questo a me piacciono le norme di sempre, perché io quando viene una persona così, una supernumeraria, una cooperatrice a dirmi che non è riuscita a fare il piano di vita, a me viene a volte di dire, però almeno l'ultima norma di sempre puoi viverla, la gioia. Essere contenta di non essere riuscita a fare niente. E così almeno l'ultima norma di vita, la gioia, la viviamo, no? Sono contento che non sono riuscito né andare a messa, né. Sono felice perché è quello che il Signore mi regala oggi. Poi, a dire il vero, sempre appunto di lavoro ce n'è, quindi almeno la seconda norma di sempre. Il lavoro è un luogo dove noi, cosa significa che sia che il fondatore dell'opera l'abbia indicato come luogo di preghiera, perché è un luogo di preghiera, luogo di incontro con Dio, no? Cioè, è solo un'indicazione, evidentemente, ma avrebbe potuto dire, cioè, per una donna sposata, tenere in braccio un bambino, allattare un bambino, svegliarsi tutte le volte che la piccola Teresa chiede alla mamma cibo, oppure, cioè, è ovvio che quello è un luogo privilegiato di presenza di Dio, di incontro con Dio. È il luogo dove Maria allatta Gesù, cioè è il luogo più sacro, no? E infatti poi piaceva al fondatore dell'opera dire il letto coniugale è un altare, cioè è un altare, luogo dell'incontro con Dio, luogo del sacrificio, che diventa gloria. Questo è quello che il Signore vorrebbe, no? Dire a noi con il messaggio che ha dato, opera di Dio, cioè lavoro di Dio. Gesù in questo Vangelo di Giovanni dice: mio Padre opera sempre e anch'io opero, cioè Dio opera sempre. E poi Giovanni nella sua lettera dice: Dio è amore. E quindi Dio opera sempre l'amore. Quindi la vera traduzione di Opus Dei, opera di Dio, dovrebbe essere opera dell'amore, fare l'amore sempre. Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore, diceva Giovanni della Croce, no? E così penso che sia successo a Guadalupe. Alla fine della sua vita Gesù le ha detto: bene, serva buona e fedele, hai amato tanto, hai continuato ad amare, hai amato in tutte le circostanze, no? in Messico, a Madrid, a Roma, e nella malattia, nel lavoro, insomma. Chi vede me vede il Padre, e il Padre opera sempre, e il Padre è amore, e il Figlio percepisce l'amore di Dio e lo vive in libertà. In verità io vi dico, scusate, non credi che io sono nel Padre, il Padre in me. Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro credetelo per le opere stesse, per vedere le opere d'amore di Gesù. Per i discepoli era decisivo, cioè, poi alla fine della vita gli fa questi discorsi, ma prima cominciò a fare e poi a insegnare. Loro si sentivano amati da lui, per questo può dire amatevi come io vi ho amato. E l'amore è quello che conta, non il compimento dei propositi. Se è per amore va bene, ma non per la nostra perfezione, non per sentirci sicuri di aver fatto tutto bene. E a volte, ma adesso devo finire la meditazione, l'amore è disordinato. È squilibrato, diceva il Papa alla diocesi di Roma, nel senso. Ma perché ci porta a lanciarci dove l'amore ci chiama? È una madre che dedica al figlio che ha più bisogno tutto il suo tempo, al figlio che è malato, al figlio che è appena nato. Lo dico fra virgolette, evidentemente. Disordinato nel senso che non dobbiamo pensare che c'è uno schema mentale che deve essere messo sulla nostra realtà. No, è la realtà che è verità e che ci guida, che ci comanda, attraverso la quale ci parla Gesù, ci parla lo Spirito Santo, ci chiama, ci chiede, e con la libertà della gloria dei figli di Dio, con questa libertà. Dice Gesù, in verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, le opere d'amore, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, è pazzesco che un santo possa fare di più, eppure così. Giovanni Paolo II ha visto molta più gente di Gesù nella sua vita, per esempio, molta più gente. Poi appunto, chi vive più a lungo, no? Fa più cose di quelle che ha fatto Gesù. Però dobbiamo pensare soprattutto non nella quantità, addirittura Gesù dice opere più grandi perché lui ci permette di fare queste opere. Sacrifici che durano decenni e per Gesù la croce è durata poche ore, anche se è infinitamente più pesante, no? E qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Allora andiamo, Gesù, nella messa a chiederti tutto nel tuo nome. E